Puntata di Passaggio al Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che parla appunto di ciò che accade nel quadrante nord-ovest della città e nelle vicinanze, e che appunto va in onda su Radio Wombat. La potete ascoltare in streaming dal sito wombat.noblogs.org. Va in onda tutti i lunedì alle 14.30 e in replica sempre alle 14.30 fino al venerdì. La potete ascoltare in podcast o scaricare il podcast e riascoltarla successivamente. Andate alla sezione podcast di Radio Wombat, menu a tendina, ci sono tutte le trasmissioni di Radio Wombat, chiaramente non soltanto Passaggio a Nord-Ovest, rispetto alla trasmissione che volete ascoltare, in questo caso Passaggio a Nord-Ovest, la potete riascoltare oppure scaricare e ascoltare successivamente. Nella zona appunto di Piazza Dalmazia, diciamo al lato della ferrovia, e questo è il tema della trasmissione di oggi, c'è un'area cani che rischia di scomparire. E siamo qui con un compagno, un soggetto, un abitante dell'area, appunto abitante proprio in Viale Corsica, che insieme ad altri ha costruito e ha portato avanti quest'area cani. Ecco, per una prima cosa gli chiediamo una sorta di carta d'identità di quest'area cani, dove sorge, quanto è grande, cosa c'è e via dicendo. Ciao a tutti, buongiorno, grazie di avermi invitato. Ecco sì, l'area cani di Viale Corsica si trova in fondo al viale, in prossimità della ferrovia, quindi sul lato più vicino a Piazza Dalmazia. Appunto il viale finisce contro la ferrovia e sulla destra c'è questo grosso parcheggio che poi è delimitato da quello che è l'ex Mucchi, che adesso ospita in parte i cantieri della Foster e in parte dove erano gli ex macelli, c'è una scuola elementare. E appunto l'area cani è situata all'interno di questo parcheggio, era quel pezzettino di terra è di proprietà di Rete Ferroviaria Italiane ed era completamente abbandonato al degrado, del tutto appunto sporco, perché comunque essendo un parcheggio molto un po' diciamo nascosto da quello che è appunto la visibilità pubblica della zona, c'è anche insomma frequentazioni un po' strane, c'ha sempre avuto quel parcheggio, per cui c'era un sacco di sudicio, ma per non dire insomma siringhe, tutta una serie di cose così. E quindi niente, l'area cani è un pezzo di terra di lungo circa 30-40 metri, largo forse lungo anche qualcosa di più, largo circa 10 metri, e che appunto è stato, abbiamo riqualificato, se così possiamo dire, a fine 2013, a inizio del 2014, come l'abbiamo fatto in principio, come appunto io abito nell'occupazione lì vicino, all'occupazione all'81 di Viale Corsica. Come occupazione abbiamo appunto riadibito quest'area ad uso comune, a spazio appunto per il quartiere, partendo proprio dal discorso per cui era uno spazio che in zona serviva, dato che non ci sono aree cani simili, la più vicina è di un'associazione privata e quindi ha anche tutta una serie di regolamenti per cui in realtà non ci si può andare se non si è parte dell'associazione, quindi insomma c'è una fruibilità diciamo comunque meno semplice di dell'area cane abusiva, come la chiama qualcuno in quartiere. E... area cani abusiva però a quanto ci risulta frequentata anche dai cani, dagli abitanti del quartiere, ecco, quindi appunto è frequentata, dici qualcosa di più a proposito? Sì. E appunto come sottolineavi prima l'accesso è libero. Nello stesso momento ti volevo chiedere anche l'area, c'è anche un'altra area comunque recuperata sotto certi aspetti a fianco dell'area cani che diciamo serve per iniziative sociali, ecco, indipendentemente dall'area cani, ecco. Esatto, sta parlando del basket, immagino, sì. E, no, esatto, sì, l'area, innanzitutto beh, noi l'abbiamo chiamata area cani autogestita, non area cani abusiva. E, sì, è molto frequentata perché appunto era uno spazio effettivamente necessario ed è frequentata un piacere da appunto gli abitanti del quartiere con cui c'è stato a più momenti uno scambio anche più intenso. Comunque in generale sono persone che conoscono bene o male la storia di quello spazio e che quindi diciamo una certa consapevolezza nel frequentarla o quantomeno di sapere come mai quello spazio è lì e non è più abbandonato ce l'hanno. Appunto a subito a ridosso diciamo lì ci siamo mangiati un paio di parcheggi. Abbiamo anche costruito un basket, quindi un campino, diciamo un mezzo campo da basket, perché c'è un canestro e le strisce dell'area dei tre punti, eccetera, per cui per fare le partite tipo 3 contro 3, no? E anche quello è con piacere posso dire che comunque è molto frequentato perché ci sono ragazzi che vanno lì per fare appunto delle partitelle o comunque anche noi o altri ogni tanto si fanno delle giornate là con la musica, facendo dei tornei di basket. Comunque si cerca, esatto, di valorizzare anche questo spazio che appunto ci siamo in un certo senso conquistati, abbiamo animato non solo noi, appunto anche grazie alla partecipazione di altri abitanti. Ecco, mi dicevi appunto c'è nelle vicinanze, insomma la più vicina di altre aree cani ha un'accessibilità diciamo limitata o comunque non come questa qui in fondo a Viale Corsi. Ecco, come sono nate queste aree cani? Ce ne sono altre in città simili? Insomma, com'è la storia? Ecco. Allora, io sinceramente su altre aree cani non ho moltissime informazioni. Per quanto riguarda la zona, appunto, so di questa che è in via del Palazzo Bruciato, che è di un'associazione che, insomma, penso abbia un accordo con la proprietà che credo sia comunale e c'ha una gestione... cioè tendenzialmente è abbastanza semplice, però appunto bisogna essere parte dell'associazione per frequentarla. Di altre, sicuramente ci sono altre cose simili, anche se magari non strettamente legate a un discorso che comunque rivendica l'autogestione e diciamo cerca anche di promuoverla e di dar spazio a altre forme controculturali, ad esempio comunque l'area cani di Viale Corsia di cui stiamo parlando è anche diventata, cioè la nascita dell'area cani e del basket ha anche permesso a tutto questo questa parte di parcheggio che è sempre stata diciamo molto degradata di diventare uno spot ormai anche abbastanza famoso per i graffiti, per cui è tutto... cioè comunque insomma diciamo c'è un collegamento fra queste cose, cioè si è riusciti a incontrare tramite appunto il mezzo dell'autogestione anche appunto il dicendo che è quello il fulcro di questa attività è diventata appunto anche un luogo di interesse per i graffitari, ecco. E di altre non so molto, però ci possiamo ritornare. No, una cosa che appunto mi fa piacere anche dire, insomma, per continuare a descrivere qual è un attimo questa storia dell'area cani, è che c'è stata per appunto inizialmente è stata un'iniziativa nostra come occupazione che appunto ha incontrato anche il piacere delle persone del quartiere. Ci sono state, nel primo anno c'è stato un periodo in cui si è cercato tramite dei momenti assembleari una gestione condivisa con chi la frequentava. Un percorso all'inizio è andato anche molto bene, si sono fatte anche delle scene insieme, è stata anche un po' la scusa per costruire una socialità che si muovesse all'interno dello spazio. E mi dicevi appunto, è nata nel 2013 e che appunto ora è minacciata da un progetto del comune, insomma, soliti progetti calati dall'alto che non tengono conto di quelle che sono magari le reali esigenze del quartiere. E volevo partire proprio dal fatto che, ora me lo direi tu, ma prima di tutto i costi, nel senso che quanto è costata la vostra area cani? Allora, la nostra area cani ha avuto un costo, diciamo, tendente allo zero, perché noi appunto per quanto riguarda, cioè, abbiamo ripulito e quello, diciamo, costa solo lavoro umano, non so come dire, e tutt'al più, diciamo, qualche filo del decespugliatore per togliere tutti gli arbusti che c'erano, e anche per quanto riguarda le vernici, perché comunque quando si è tirata su c'è stata un'inaugurazione, appunto è iniziato questo discorso di writing su tutto il lungo ferrovia appunto esterno che si rivolge all'area cani. Anche quello, le vernici, insomma, si recuperano abbastanza facilmente, per cui, diciamo, il costo della nostra area cani è stato tendente allo zero. Ecco, quindi un'area sottratta al vero degrado, un'area riconsegnata agli abitanti del quartiere e riconsegnata con un costo zero. Passiamo ora al progetto del comune, costi e finalità, ecco, di questo progetto. Allora, il progetto del comune, parto dai costi. I costi sono solo quelli già approvati, quindi esclusi eventuali straordinari, sono oltre 800.000 euro e appunto sono già previsti come costi aggiuntivi potenziali e altri 150.000, per cui si sfiora il milione di euro. E vado nello specifico perché sennò si parla solo dei costi. Il progetto che è approvato dal comune è una delibera definitiva del comune di Firenze, è quello di fare di tutta quell'area, quindi non solo dell'area cani, tutto il parcheggio, un parcheggio scambiatore. Scambiatore di cosa? Scambiatore per la linea della tranvia, la linea appunto che passa da Piazza Dalmazia. Quello sarebbe il parcheggio scambiatore di Piazza Dalmazia, che appunto va a incontrare quelle esigenze di muovere flussi del turismo e non solo, anche del lavoro legato al turismo, comunque di tutta quell'affluenza che si cerca di dare a Firenze al centro storico. E appunto è un progetto che ha anche del ridicolo, perché sostanzialmente tutta quell'area è già un parcheggio. Esatto. Sono 20 posti. Esatto, cioè tutta quell'area ha già un parcheggio che conta oltre 100 posti auto, ma sono quasi 200 posti auto, e in tutto questo progetto, che appunto ha un costo elevatissimo, il comune ci guadagna solo 20 posti auto, che all'incirca, infatti, c'è ovviamente una corrispondenza molto semplice, quei 20 posti auto sono lo spazio occupato attualmente dall'area cani, per cui è proprio un costo elevatissimo per un guadagno veramente minimo. Se non che, per andare a spiegare un po' meglio, questo costo è anche dovuto al fatto che comunque in tutto ciò rifaranno completamente tutto il manto stradale, modificheranno, appunto tirando giù l'area cani, faranno un'aiola stretta, molto stretta e lunga per tutta la lunghezza del parcheggio, rifaranno l'illuminazione elettrica, rifaranno le tubature, tutto, insomma, metteranno le telecamere, faranno, poi probabilmente sarà un parcheggio che sarà a pagamento, che comunque non avrà, o magari sarà per residenti, perché poi è una cosa che anche a noi, appunto dell'occupazione, ma in realtà anche ai vicini di casa, insomma agli altri abitanti della via, ci preme sottolineare, in realtà Viale Corsia gode di una certa impunità, diciamo, per quanto riguarda i parcheggi, e una certa eccezionalità rispetto a tante altre aree di Firenze, perché Appunto, come immagino gli ascoltatori sapranno, nel comune di Firenze i parcheggi sono o per residenti oppure sono parcheggi a pago, per cui se uno non è residente, se uno, tipo il caso nostro di occupanti, infatti essendo occupanti non si può avere la residenza nel posto dove si abita per, grazie all'articolo 5 del piano casa di Renzi. Insomma, sostanzialmente, per arrivare al dunque, in Viale Corsica dei parcheggi non gli ha mai fregato niente a nessuno, i vigili non sono, diciamo, così accaniti come da altre parti, e quindi questo ha creato anche una certa abitudine al fatto che è un'area, siccome offre molti molti parcheggi, cioè spesso ce n'è tantissimi liberi, insomma, è tutta un'area dove non c'è tutta questa regolamentazione del parcheggio, e le persone ci sono anche molto abituate, diciamo, cioè quando ci sono i vigili c'è un attimo il panico dappertutto, perché chiunque non abbia diritto a parcheggiare lì è abituato che nei fatti questo diritto ce l'abbiamo tutti. E tra l'altro volevo ricordare che proprio sul rapporto, cioè tranvia parcheggi, una trasmissione sempre di Passaggio al Nord-Ovest, ora non ricordo, mi sembra 28-29, con un rappresentante Copasse Ataf, illustrava anche in maniera più dettagliata, diciamo, proprio le problematiche legate ai parcheggi scambiatori, e sostanzialmente sono per la stragrandissima maggioranza vuoti, ecco, comunque non atti a risolvere i problemi dei residenti che lì ci lavorano. Ci sentiamo un pezzo musicale, l'Asian Dub Foundation, un pezzo si intitola N, un pezzo dal vivo al Festival di Eurokidneys a Belfort. Tell the people. This next song is for a great film director and actor who you might know. Name is Maciej Kasowicz. You know him, right? This song is named after a classic film. It's called La Haine. Come on, Steve! Eccoci qua, sempre all'ascolto di Radio Wombat, sempre all'ascolto di Passaggi a Nord-Ovest, e appunto riprendiamo questa intervista appunto sull'area Cani di Viale Corsica, minacciata da un progetto del comune di cui è stato illustrato le caratteristiche. Ecco, ti volevo chiedere i tempi, l'iter burocratico, le possibilità concrete, ecco, che le ruspe arrivino a buttare giù quello che è stato faticosamente costruito e socialmente utilizzato dagli abitanti dei quartieri. Allora, per le tempistiche vi posso dire che il progetto definitivo è stato approvato dal Comune di Firenze nell'ottobre, nel settembre del 2017. Progetto definitivo che però quando approvano un progetto definitivo vuol dire che hanno fatto, diciamo, i preventivi e che l'hanno deliberato, non vuol dire che ci sia neanche tutti questi dettagli su quella che è esattamente la progettazione. Infatti si sta aspettando di capire quando sarà esecutivo, perché appunto quando sarà esecutivo ci saranno i dettagli riguardo più nello specifico anche gli appalti e l'inizio effettivo dei lavori. Noi si immagina anche, insomma, abbiamo sentito persone che sono un attimo più esperte di noi su sta cosa, perché insomma non è che si sia proprio ferrati riguardo queste questioni. Sì, non solo ferrati, ma c'è da dire anche che per il normale cittadino, ecco, da questo punto di vista è molto difficile ricostruire, accedere agli atti del, esatto, comune, ecco, questo è un'altra particolarità, insomma, su cui ci sarebbe da dire molto. Comunque. E quindi stiamo aspettando di capire quando questo progetto diventerà esecutivo. Nel frattempo si sta cercando di portare una sorta di controproposta che preveda il non abbattimento dell'area Cani, quindi la valorizzazione di questo spazio, anche se comunque c'ha, diciamo, un po' di controversie rispetto a se c'è la possibilità di farlo, da una parte perché siamo molto disillusi rispetto a, appunto, la gestione del Comune di Firenze, quindi non ci facciamo grandi aspettative, dall'altra per il fatto che appunto vorrebbe dire probabilmente cambiare la gestione dell'area Cani, perché se viene riconosciuta questa cosa ci immaginiamo che verrà richiesto di, diciamo, in qualche forma o legalizzarla o comunque non, di sicuro non è tollerata per quello che è, non per particolari rischi sociali o che, ma semplicemente perché è la prova di, appunto, come l'auto-organizzazione può gestire degli spazi comuni autonomamente. Ecco. E, diciamo, una sorta di, temete una sorta di snaturamento, diciamo, da come gestite e quindi anche da come è vissuta. Ecco, e da questo punto di vista le reazioni degli abitanti rispetto di chi la utilizza giornalmente, quest'area Cani, come avete sentito qualcuno, ci sono state delle discussioni, ecco. Sì, ovviamente, nel senso, con chi uno conosce di persona si è parlato, ovviamente è un fatto che dispiace a tutti e su cui appunto ci sono anche persone che, in particolare appunto padroni di cani, che si stanno occupando anche di capire meglio quali sono le tempistiche, appunto tutte queste questioni burocratiche, per cui infatti tornando sulle tempistiche un attimo, ci immaginiamo che già dall'estate potrebbe appunto diventare esecutivo e quindi iniziare i lavori entro da quest'estate alla fine dell'anno. Poi magari ci sbagliamo e è tutto un po' più tardi, questo non si sa, diciamo si sta cercando di andare con i piedi di piombo. E appunto le reazioni delle persone sono di preoccupazione per questo fatto, perché di sicuro è un attacco diretto a quelli che sono i bisogni degli abitanti ed è anche l'ennesima palesazione di come si muovono le amministrazioni e appunto qual è l'interesse reale che appunto in questo caso non guarda tanto al bisogno del cittadino ma guarda di più a esigenze turistiche e della logistica legata al turismo, ecco. E c'è stata un'assemblea pubblica ormai oltre un mese fa che ha visto la partecipazione appunto di un po' di abitanti della zona, in cui si è deciso di appunto cercare di reperire maggiori informazioni e provare a portare appunto una controproposta che comunque non mettesse in discussione il progetto in toto, ma che riconoscesse, esatto, ecco, l'area Cani e il basket anche lì accanto, per quanto sia in realtà più difficile perché quello effettivamente occupa una parte del parcheggio. E dopodiché si è cercato perché sempre in Viale Corsia c'era stato, e tra l'altro la vostra trasmissione era venuta a fare le interviste, la questione degli ippocastani dello scorso agosto. Sì, infatti quando ha parlato dei lavori agosto pensavo sarà per l'anniversario, esatto, l'abbattimento degli alberi magari. Ci fanno un po' d'agosto tutti in vacanza. E no, appunto da quell'esperienza lì è nato e ha continuato a esistere fino a dicembre con una regolarità settimanale il comitato appunto era nato in difesa degli alberi, ma che ha sempre avuto uno sguardo anche ad altre questioni del quartiere, per cui ci stiamo occupando di questa questione insieme e adesso purtroppo non posso darvi una data, ma probabilmente per fine d'aprile o tutt'al più per i primi di maggio ci sarà una giornata lì all'area Cani di sensibilizzazione e di valorizzazione dell'area Cani, comunque di utilizzo. Si farà probabilmente appunto una giornata in cui si mangia, si sta insieme, probabilmente si faranno anche alcuni lavori che già si fanno. Infatti questa è una cosa anche bella dell'area Cani, che comunque se all'inizio era gestita da noi, adesso noi intendo noi dell'occupazione che l'abbiamo costruita all'inizio, adesso sì, ci mettiamo magari un impegno noi, ma anche altre persone si occupano anche solo del mantenimento della pulizia di quell'area, di risistemare le piccole cose che col tempo si usurano, si rompono. E mi sono un po' perso, scusatemi. Sì, no, volevo chiedere delle prossime iniziative, ma sostanzialmente le hai già illustrate. Ecco, diciamo che da un punto di vista proprio dell'iniziativa concreta si aspetta di capire quali saranno i passaggi da parte dell'amministrazione comunale. Nel frattempo una assemblea a fine aprile inizio maggio che come verrà pubblicizzata? Gli abitanti, i volantinaggi? Sì, sicuramente verrà pubblicizzata sia via internet che appunto nella zona, perché appunto l'interesse è quello di andare a sensibilizzare le persone che quel posto lo conoscono in primis, perché ovviamente uno può essere solidale, ma è molto importante appunto valorizzare quella che è l'utilità, non so come dire, l'utilità sociale di quell'area. E quindi niente, ci sarà questa giornata a cui insomma spero gli ascoltatori, invito volentieri gli ascoltatori a partecipare, spero che verranno raggiunti da un volantino. E magari ne daremo anche l'annuncio volentieri tramite Radio Wombat. E ci fermiamo qui, mi sembra che la cosa sia stata spiegata in maniera esaustiva. Vi ricordiamo Passaggi a Nord-Ovest, va in onda il lunedì alle 14.30, lo potete riascoltare fino al venerdì sempre alle 14.30 e lo potete anche riascoltare in podcast. E tutto ciò in streaming o in podcast, appunto. Ricordiamo anche che da un po', ora un alcune settimane potete ascoltare la radio anche sull'1359 AM nella zona di Firenze. Stiamo facendo una mappatura per quelle che sono, diciamo, le zone raggiunte e in che modo sono raggiunte, appunto nel caso ascoltasse in AM. Diteci, magari segnalateci l'indirizzo di posta, che è postawombat@insiberia.net. Ricordiamo anche, visto che ci siamo, l'altro profilo social twitter.com/radiowombat, il sito è appunto wombat.blogs.org. Appuntamento per la prossima trasmissione di Passaggio a Nord-Ovest. Ciao ciao. Ciao, grazie.